Sugli accordi di una vecchia fisarmonica, una voce misteriosa e un po' romantica porta l'eco per la langa e la vallata. Sono note di una triste serenata. Langarola vagabonda, seduta sulla sponda del Tanaro che va. Guardi l'acqua che cammina, che piano si allontana, ma lui non tornerà. Quante sere arriva al fiume, nascosti tra le dune, qui nell'oscurità. Ma l'amore come il vento, ti sfiora in quel momento, poi passa e se ne va. Un altro amore sboccerà. Langarola vagabonda, seduta sulla sponda del Tanaro che va. Guardi l'acqua che cammina, che piano si allontana, ma lui non tornerà. Una donna che negli occhi c'era il pianto, sta fissando un po' smarrita il firmamento. Ora è sola, sola con il suo dolore, è finita la stagione dell'amore. Langarola vagabonda, seduta sulla sponda del Tanaro che va. Guardi l'acqua che cammina, che piano si allontana, ma lui non tornerà. Quante sere arriva al fiume, nascosti tra le dune, qui nell'oscurità. Ma l'amore come il vento, ti sfiora in quel momento, poi passa e se ne va. Tornerà la primavera, con i fiori che tu resti un anno fa. Cerca di dimenticare, un altro amore sboccerà. Langarola vagabonda, seduta sulla sponda del Tanaro che va. Guardi l'acqua che cammina, che piano si allontana, ma lui non torna.